perché non vuol, non, mangiare bene non vuol dire mangiare male. Quindi aglio senza, senza l'anima praticamente. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Se rinasco, rinasco cipolla, perché mi, mi sembra che sia perfetta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ehi papà, stammi a sentire, ti ricordi quella volta che siamo andati a pedalare con le biciclette stanche, con le mani sporche e vuote, eravamo come fratelli, uguali come due ruote. Ti ricordi la domenica, ti portavi con te allo stadio, quella volta che mi hai preso in braccio con la curva sotto assedio, la gente che scappava sembrava una guerriglia. Oggi è il 19 marzo e dedichiamo la puntata al papà all'ascolto. Siete papà? Volete condividere con noi un pensiero speciale tra padre e figlio, oppure avete voglia di fare una dedica al vostro papà in quanto figli e figlie dell'uomo più importante della vostra vita? E se siete padri di figli maschi, provate a pensare qual è il modello maschile che state cercando di trasmettere a vostro figlio. Che cosa vorreste trovare in lui del vostro essere uomini e maschi? Oggi a Cuore Denari parleremo di paternità, di padri e figli, ma anche di maschi e uomini. Insomma, faremo un vero e proprio percorso di genere. Naturalmente vogliamo lanciare però anche un messaggio per le amiche all'ascolto, perché ogni donna lo sa, e se non ne ha immediatamente la percezione lo capisce nel tempo, che il padre è quell'uomo speciale che segna nel bene e nel male la nostra vita, ci condiziona, sì, ci fa crescere, ci aiuta a essere donne con le nostre fragilità e le nostre sicurezze, e condiziona forse anche il rapporto che noi abbiamo con gli uomini della nostra vita. È il primo uomo del resto con il quale ci relazioniamo, no? È vero, è lui che ci dà un po' anche, no? Ci fa sentire belle, la percezione che abbiamo di noi. Benissimo. Arriva da lui. Ogni donna avrà tante belle cose da raccontarci questa mattina. Per quello che riguarda i denari, oggi è giovedì, è il giorno della rubrica sul risparmio, investire informati. Abbiamo scelto un taglio che ci fa riflettere su quello che un padre può trasmettere ad un figlio. Non ci riferiamo solo al risparmio in sé, il gruzzolo accumulato in una vita, magari una casetta che si lascia a chi viene dopo di noi. Anche la cultura del risparmio può essere trasmessa, ed è un concetto che va oltre la semplice paghetta, no? C'è la lungimiranza, la progettualità che ci vengono insegnate in famiglia. È stato così anche per voi? Avete mai riflettuto sul modo con cui trasmettere questa sensibilità ai vostri figli? 800 24 00 24, ci piacerebbe che voi iniziaste a raccontarcelo. Parleremo di questo, ma vi presenteremo anche la nuova edizione del Salone del Risparmio, che parte proprio la prossima settimana, e ci sarà anche ampio spazio dedicato al risparmio, appunto, per i giovani. Tutto questo a partire dalle 11:45. Essere maschi è una condizione oggettiva. Siamo nati così. Sapere chi siamo trasforma il nostro essere maschi, ovvero una condizione oggettiva, nel nostro progetto di vita, ovvero in una condizione soggettiva. E quando questo succede, noi maschi abbiamo la possibilità di diventare non solo veri uomini, ma anche uomini veri. È quello che auguro a me e anche a voi. È così che si chiude un libro di cui parleremo oggi in questa giornata speciale. Intanto, Deborah, facciamo gli auguri a tutti i papà all'ascolto. A tutti, anche quelli che non ci sono più. Poi vogliamo anche darvi l'occasione di fare una dedica al papà che avete avuto, oppure al padre dei vostri figli che avete al vostro fianco, o ancora un uomo che magari non è vostro padre ma si è comportato da voi come un padre, no? Ha lasciato un segno profondo nella vostra vita. Ma soprattutto vorremmo approfittare di questa giornata per riflettere insieme a voi rispetto ai grandi cambiamenti che hanno interessato il mondo degli uomini e che riguardano inevitabilmente anche tutte noi donne che stiamo crescendo figli maschi, che diventeranno saranno i compagni di vita, i padri, i cittadini di domani. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. Siamo un po' innamorate di Cass Stevens. Eh sì, non solo a questa canzone, diciamo un po' a tutto questo personaggio che ha veramente anche un po', del mitologico oggi. Comunque ne parliamo un'altra volta di Cass Stevens. Questa è una canzone piena di significato ma anche di tensione, no? Perché mette a confronto un padre col figlio, due mondi diversi e due modi diversi di affrontare la vita e di vedere il futuro. Insomma, quello che possiamo definire uno scontro generazionale tutto al maschile. Così è stato per molti e per molto tempo il rapporto, no, tra padre e figlio. Ma proprio oggi esce un libro edito da Feltrinelli che invece vuole essere un'occasione di incontro tra padre e figlio, ma anche uno strumento di riflessione al maschile da condividere tra genitori e ragazzi. Baciare, fare, dire cose che ai maschi nessuno dice. Questo è il titolo del libro e l'autore è un nostro amico in linea con noi. Auguri anche a lui, è Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, grazie degli auguri che mi prendo molto volentieri. Ecco, tu sei un pluripapà, perché allora tu sei medico, psicoterapeuta, scrittore, nostro amico e pluripapà. Oggi ti festeggiamo come psicoterapeuta e ma ancora prima come papà, un pluripapà perché quattro figli, insomma. Una bella sfida. Oggi, assolutamente, devo dire che tra l'altro oggi i miei figli mi hanno fatto una grande sorpresa, perché quando mi sono svegliato c'era una sorta di piccolo allestimento di mostra con disegni tutti dedicati a me. Auguri papà, c'era scritto. Ma dai, e tu ti sei sciolto. Che tenerezza. Certo, è stata una bella sorpresa. Sbriciolato totalmente. Ecco, allora, ieri sera per farmela. Carini. Allora, che cosa vi hanno scritto, che cosa vi hanno regalato, qual è il pensiero che magari avete raccolto stamattina? Proprio volete scrivercelo, raccontarcelo, ma potete mandarci naturalmente un messaggio. Alberto, torniamo al libro. Cose che ai maschi nessuno dice, è il sottotitolo del tuo libro, ma che cosa intendi? Quali sono le cose che ai maschi nessuno dice? Ma io ho proprio scritto questo libro riflettendo come genitore di quattro figli, di cui due maschi, e poi perché lavoro con i ragazzi, con i genitori dei ragazzi, vedo come psicoterapeuta spesso maschi in difficoltà, giovani maschi in difficoltà, e mi rendo conto che c'è proprio questa fatica, cioè di poter comunicare ai maschi che crescono che più che diventare un vero uomo, cioè un messaggio che ci arriva tante volte, sii un vero uomo, e magari ti dicono questo in un momento in cui sei triste e ti viene da piangere, no? Sii un vero uomo, i veri uomini non piangono mai. Ecco, credo che sia molto importante per i nostri figli insegnargli ad essere invece uomini veri, cioè a non sentire che l'essere uomo significa rinunciare a una dimensione importante della nostra vita come quella emotiva, e poi probabilmente a cambiare anche il paradigma con cui da sempre noi diventiamo maschi adulti e uomini adulti, cioè a pensare che il vero significato della nostra vita sta fuori di noi, sta nel lavoro che facciamo, sta nel mondo dove ci muoviamo, che chiaramente è una dimensione importante, è davvero fondamentale come uomini e come maschi riappropriarci anche del dentro, cioè del dentro la casa, dentro le relazioni, cioè coltivare una dimensione più intima e connessa con noi stessi e con gli altri. Questo ci darebbe anche grande felicità, certo, una maggiore felicità anche nelle relazioni amorose. Allora, vorrei leggervi il messaggio che ci ha mandato Maria al 349-238-6666. Un padre disse al figlio: fai attenzione dove metti i piedi. Il figlio gli rispose: stai attento tu, ricorda che io seguo i tuoi passi. Alberto, questo racconta molto bene, no? Quello che un figlio si aspetta da un padre. È il padre che sia un po' guida. Potremmo chiudere qua la puntata e andare a casa. Trasmissione, perché il messaggio di Maria è davvero importante. Io credo che è un messaggio che ci dice due cose. Da una parte, che come genitori e come padri abbiamo davvero la responsabilità non solo di educare i nostri figli, ma di condividere con i nostri figli un modello di identità di genere, cioè in qualche modo il maschio adulto che diventerà nostro figlio sarà fortemente ispirato al modello di maschio e quindi di uomo con cui è cresciuto, quello del suo papà. e allo stesso tempo il messaggio, no, del figlio raccontato nella breve storia di Maria ci dice che i figli ci osservano, cioè che hanno davvero bisogno di noi per costruirsi la loro idea del mondo e anche per imparare a buttare dentro di sé l'idea che vogliono perseguire di se stessi, il progetto di vita dove sentiranno di essere diventati davvero quello che vogliono essere. Alberto, oggi abbiamo chiesto agli ascoltatori, stanno già arrivando tantissime messaggi al 349-238-6666, che cosa vi hanno regalato, che cosa vi hanno detto, che cosa hanno fatto i vostri bambini, i vostri figli per voi, e sono delle cose bellissime, viene fuori anche proprio questa tenerezza dei papà. Spiazzante qualche volta, penso, vero? Anche per qualche papà, vero? Allora, però io vorrei, intanto poi ne leggeremo sicuramente qualcuno, vorrei commentare e dare un contributo personale a Marco, poi sentiamo Alberto che cosa ci dice. Ho 59 anni e faccio fatica a fare gli auguri a mio padre 84enne, sbaglio. Allora io direi a Marco, proprio con tutto il cuore, lo coccoli, gli dimostri che gli vuole bene, se lo goda, perché poi quando il suo papà la lascerà avrà un vuoto dentro di sé che rimpiangerà tutti i momenti in cui poteva essergli vicino e magari per una serie di ragioni infinite, tutte giustificabili, magari non lo ha fatto. Quindi lo accarezzi. I nostri genitori, soprattutto quando diventano anziani, hanno bisogno che noi gli dimostriamo l'affetto, anche proprio fisicamente, una vicinanza fisica che parla della vicinanza emotiva. Alberto. Sì, è molto vero quello che dici, probabilmente io riesco anche a intuire forse la difficoltà di Marco, cioè tutto quello che dici probabilmente lui lo vorrebbe davvero fare, infatti lo racconta come una sua difficoltà e dice, è come se dicesse mi piacerebbe farlo ma non ci riesco, e forse perché il papà è davvero un uomo che non si è lasciato tanto avvicinare, cioè forse la fatica di Marco in questo momento è che vorrebbe fare quei gesti al suo papà, ma il suo papà forse quei gesti non li riesce a tenere dentro di sé, quindi magari si ripresenta davanti al figlio ancora in modo un po' rigido. È verissimo però che questa rigidità va proprio spezzata, cioè certo. Alla fine forse Marco non riesce a carezzare il suo papà, ma magari può proprio scrivere un messaggio, una lettera al suo papà dove riesce a dire non te l'ho mai detto, ma io ti voglio davvero tanto bene e mi piacerebbe abbracciarti. Ecco, lo faccia oggi, Marco, lo faccia oggi, non rimandi a domani. Allora, dunque, siccome ci stanno arrivando testimonianze e messaggi davvero molto carichi di emotività ed era naturale che succedesse con questo argomento, noi naturalmente ci sentiamo nel pieno diritto di regalare i libri di Alberto, certo. Perché lui ce ne mette un po' a disposizione, baciare, fare dire cose che ai maschi nessuno dice. Allora voi papà all'ascolto, oppure donne che volete far felice un papà, magari il vostro, magari quello che cresce i vostri figli, magari un collega che vi sembra davvero speciale nel rivestire questo ruolo, oggi possiamo regalare appunto alcune copie il libro di Alberto Pellai, chiamateci in diretta, fate questa dedica al vostro papà o ad un uomo che per voi è stato un padre, che vi ha guidato e sorretto nel vostro percorso di vita professionale, sportiva, relazionale, oppure voi papà fate una dedica da papà a vostro figlio, insomma le migliori saranno scelte da Alberto, facciamo scegliere a lui. Nicoletta, che cosa ne dici? Deve assolutamente scegliere lui perché è autore del libro, è psicoterapeuta e pure papà. Esatto, quindi insomma persona assolutamente pertinente per fare la scelta poi della dedica di stamattina. Allora, il Francesco, c'è un messaggio di Francesco che ci dice: i miei due figli questa mattina mi hanno chiamato e detto la poesia al telefono. Trovandomi fuori per lavoro mi hanno motivato un sacco. Alberto poi nella scuola materna ha avuto la festicciola con biscotti e torte preparate dai bambini, una splendida colazione da consumare tutti insieme a tutti i papà, pensa che festa stamattina. Da Giorgio da Padova: io sono padre di due bambine, 3 anni e mezzo e quasi 9 mesi, ieri sera la grande mi è corso incontro dicendomi papà tanti auguri, ti posso dare un bacio e un abbraccio per la tua festa, diciamo che passano in un attimo tutte le 12 ore di lavoro giornaliere, sei pronto per altre 12, tutte ad un fiato. Benedetta ed Elisa da Roma ci chiedono se possiamo fare tanti auguri al meraviglioso, paziente, fantastico papà Marco. Ottimo, che ci auguriamo, certo. Allora, andiamo a Savona, c'è Gaetano e poi andiamo a Giuseppina da Modena. Allora, io qua mi infilo a gamba tesa perché oggi è San Giuseppe ed è anche l'onomastico della mia mamma. Posso? Giuseppina, vai. Tanti auguri di buon onomastico. E vai. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per gli auguri e il ricambio anche per la mamma. Anche a tutti Giuseppe. Grazie. Certo. Ottimo. Qual è la mia esperienza? La mia esperienza è questa. Io sono stata una bimba felice con due genitori naturali. Purtroppo i miei mi hanno lasciato presto. E sono stata poi adottata da adulta dai miei zii che mi avevano seguito. Sì. Quindi la mia esperienza è questa. L'amore non ha limiti, non ha vincoli di sangue. È vero. È solo amore. È solo amore, Alberto, ci dice Giuseppina, che naturalmente anche è commossa e no, ci racconta questa storia che proprio nasce dal suo cuore, quindi racconta anche un po' le difficoltà che tante volte no, dobbiamo superare, che la vita ci mette di fronte. Credo che nella... Deborah, ce l'ho. Deborah è preoccupata perché mi è mancato da poco il mio papà. Ecco. E quindi per me questa è una puntata molto delicata, ma che io sono contenta di affrontare con voi. Non mi viene da piangere, ma se anche mi venisse, io so che i nostri ascoltatori ci vogliono bene e che quindi mi danno un grande abbraccio. Alberto. Sì, penso che poi proprio un po' quello che stiamo dicendo, cioè quando parliamo di una cosa così importante come le relazioni che ci costruiscono la vita, che ci mettono al mondo, che ci accompagnano nella vita, non sono solo le parole, no, importanti, il cosa diciamo, ma è proprio il come racconta dal profondo l'intensità di una relazione, di un legame, di un rapporto, l'importanza che ha avuto. E quindi credo che non solo le parole, ma anche le lacrime di Giuseppina raccontano tutto, e non c'è altro da dire. E bisogna che queste lacrime lasciarle, no? Uscire, andare, scendere. Brava, no? Brava, è una sono cosa totalmente bella. D'accordo. Sì. Allora andiamo da Gaetano che ci chiama da Savona. Buongiorno Gaetano, benvenuto. Buongiorno a voi. Volevo fare una piccola aggiunta. Sì. Perché la domanda era cosa bisogna fare per essere un buon padre, maschio e tutto quanto. Bisogna avere un'ottima moglie, primo. Perché il rapporto con la madre è forse... non dico più importante, ma è altrettanto importante. Per essere un buon maschio, per essere un buon padre, per essere un buon uomo, ci vuole un'ottima madre, è tutto lì. Questo è il fatto. Perciò oggi la festeggerei insieme. Grazie Gaetano, un'ottima proposta, mi piace molto. Alberto, il tuo libro a io Savona a Gaetano glielo darei subito. Ah, sì, io credo che ha fatto veramente un intervento perfetto, cioè nessuno si salva da solo, nessuno riesce ad essere se stesso realmente se non nella relazione, nella cooperazione con gli altri, e sono molto d'accordo sul fatto che il meglio di noi uomini spesso noi riusciamo a darlo nel momento in cui abbiamo a fianco una donna che ci permette di esprimerlo. E questo non significa femminilizzare la mascolinità come molti temono, io credo proprio sia invece contaminarla con una serie di codici che nel mondo della cultura maschile non sono stati a volte presenti o rilevanti come invece dovrebbe essere per vivere bene. Cuore e denari. Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Anche il risparmio passa di padre in figlio in questa giornata dedicata al papà. Noi intrecciamo sempre le nostre trasmissioni, ma oggi in particolar modo, passando dalla prima alla seconda parte, vorremmo in realtà, Nicoletta, che la cesura totale non ci fosse, perché sono tutti temi assolutamente legati. Oggi è la festa della figura del padre, stiamo parlando di questo nella pagina di Cuore, ma alle 11.45 continueremo appunto su questa scia. Nell'appuntamento settimanale con Investire Informati ci dedicheremo alle modalità migliori per risparmiare per i nostri figli, al passaggio generazionale dell'abitudine, della cultura, se possiamo chiamarla così, del risparmio. A voi chi l'ha trasmessa? Un padre o una madre? Un nonno o una nonna? E voi come la trasmetterete? Ai vostri figli raccontatecelo all'800 24 0024. Ne parleremo tra poco, lanceremo anche la nuova edizione del Salone del Risparmio, che peraltro ci vedrà in diretta con ben tre puntate di Cuore Denari la prossima settimana. Ehi, papà, stammi a sentire. Ti ricordi quella... Eccoci qua, noi torniamo a parlare di papà con Alberto Pellai, prendiamo spunto dal suo ultimo libro. Alberto, che poi tutti l'ultima fatica letteraria, invece dovrebbe essere un piacere, no? Scrivere, o no? Ah beh, è un grande privilegio anche. Un grande privilegio. Scrivere ed essere pubblicati è proprio un privilegio. Baciare, fare dire cose che ai maschi nessuno dice, Feltrinelli Editore, chiamateci in diretta, fate una dedica al vostro papà, un uomo che per voi è stato un padre, che vi ha guidato, sorretto nel vostro percorso di vita professionale, relazionale, sportivo. Oppure voi papà, provate a esercitarvi, fate questo esercizio, dedicate voi una frase, un pensiero a vostro figlio o anche al figlio, no, che desiderate. Altro che, perché magari molti di voi vorrebbero essere padri, saranno padri nel futuro e hanno, no, un'immagine. Esatto, di questa vocazione peraltro alla paternità forse parliamo anche un po' poco, no, perché sembra sempre che l'orologio biologico scatti per la donna, ma in realtà forse di questa versione al maschile dovremmo affrontarla, ti piace come tema? Sì, perché l'affronteremo, è uno dei prossimi temi di Salute Uomo. Ottimo. E inviteremo anche Alberto Pellai, molto che bene, ci darà il cotè psico. Alberto, la relazione tra padre e figlio, che è una relazione complessa, no? Un po' ricca di, diciamo, di sfumature, come tutte le relazioni, ma che condiziona un po' la nostra vita presente e futura, ci rende, no? Ci fa crescere, uomini o donne. Ha connotato molto anche gli interventi dei nostri ascoltatori, che invito comunque a comporre il nostro numero verde perché vogliamo dare loro dei libri. Alberto, ma nel tuo libro dedichi proprio un capitolo a questa relazione, in cui un capitolo che ci permette anche di riflettere su come sono cambiati i padri oggi, ma anche come si può coltivare una relazione tra padre e figlio. Sì, credo che è proprio un capitolo dove invito i ragazzi a osservare con attenzione lo stile del loro papà e a riconoscere nello stile di un padre possibilmente molto più la competenza che la potenza, che è un codice che rivoluziona un po' il modo di stare insieme tra maschi. Tra maschi siamo abituati a trasformare un po' tutto in potenza, se abbiamo un problema spesso ricorriamo anche alle botte, e vince, il concetto è che vince il più forte. Tra padre e figlio non vince il più forte, perché non c'è un nemico e non c'è qualcuno da far fuori. Il concetto è proprio, bisogna fare squadra. Il padre deve essere naturalmente un padre autorevole, un padre che sa fare da guida, ma non è la sua forza ciò che permette al figlio di diventare anche lui in futuro un uomo, è proprio la sua competenza, ed è basata sulla capacità di stare dentro una relazione, di sentirsi intimamente connessi, di poter guardare un figlio negli occhi e di sapere anche dosare, cioè riconoscere le emozioni, come la rabbia, no? Che ci esplode a volte di fronte ai figli molto potenti. Ecco, la competenza di un padre è non far esplodere quella rabbia in modo esplosivo, ma tenerla regolata, cioè gestirla e trasformarla in qualcos'altro, cioè in uno strumento che metto a disposizione poi di mio figlio, non scaricandogliela addosso, non facendola diventare una manifestazione di potere, bensì imparando ad esercitare invece un'autoregolazione emotiva che ci permette di uscire da una zona di conflitto. Allora Alberto, ci vuoi dare 4 consigli suggerire a chi ha figli maschi per un'educazione maschile, paterna ed efficace? Ma sì, nel libro provo proprio ad aiutare i ragazzi a dire che poi trasformarsi da maschio a uomo significa imparare a chiedere aiuto, per esempio sfatando un po' il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, imparare a parlare tra noi maschi non solo magari di sport o di politica, ma anche di vita e di relazioni, cosa che per noi spesso è molto difficile e di cui invece voi donne siete davvero molto esperte. Un altro consiglio che do è che non è necessario essere sempre il numero uno, trasformare la vita in una competizione incredibile perché vince il più forte, appunto, bensì è molto meglio fare squadra e quindi gestire molto meglio le relazioni in uno spirito di cooperazione che di competizione. E poi chiaramente c'è una sezione molto grossa sulla sessualità. Provare a sganciarci dalla visione un po' pornografica della sessualità, magari proprio quel modo di vedere anche le donne solo per i dettagli anatomici di cui sono connotate, imparare proprio a vedere invece che quei dettagli appartengono a una persona e che quella persona è più importante della parte del suo corpo, che spesso per esempio invece nella pornografia è al centro dell'obiettivo. Allora Deborah, vogliamo vedere se è d'accordo con questi quattro consigli anche un amico che è in linea con noi, vuoi presentarlo? Un grandissimo amico, è uno dei miei preferiti, così proprio lo dichiariamo così, senza alcun pudore. Paolo Cevoli, buongiorno, benvenuto. Ciao e grazie per la preferenza. Bravo! Una dichiarazione di preferenza in diretta. Comico, attore e ora anche regista. È un po' malatino perché per questo motivo non è venuto qua a Milano a trovarci, ma noi recupereremo presto. Sono un po' intavanato, come si dice dalle mie parti, nel naso. Senti Paolo, cosa ne dici di questi quattro consigli proposti da Alberto Pellai? Anche tu sappiamo che sei padre di due ragazzi abbastanza grandi già. Ma in realtà semplicemente perché il più grande è a 27 e si sposa fra due settimane, quindi infatti e l'altro ne ha 25, però sono sempre i miei bambini, dai, un babbo come fa? Io mi ricordo il mio babbo, diceva sempre mi burdel, in Romagna burdel. Senti Paolo, tra pochi giorni, 2 aprile per la precisione, in uscita Soldato Semplice, film di cui tu sei regista e anche protagonista, però vorremmo che tu ce ne lo raccontassi un po' ai nostri amici, ma andiamo a sentire un piccolo estratto. Chi è che era la piccola vedetta lombarda? Un gran patacca. 10 lodi. Radiato per effetto immediato da tutte le scuole del regno. Alla tua età farti mandare al fronte. Mamma, basta, che due maroni però. Chi risponde così alla mamma? Vuoi un'altra piadina? No. 4 alpini sfigati, un maestro elementare, uno scugnizzo di Napoli. Cosa ci fa un meridionale qui in mezzo alle montagne? A Capri scali faraglioni. Alpino marino. Mamma, qua mi trattano tutti bene, particolarmente il caporale Montanà, che mi tratta come un figlio. L'ultimo pensiero del nemico prima di morire sarà quanto sono valorosi questi italiani. Mammoni. Vabbè. E putaglieri. Ma soprattutto quanto sono eleganti questi italiani. Paolo, in fondo anche questa è una storia tra un padre e un figlio, quella tra il maestro elementare romagnolo Gino Montanari, interpretato da te appunto, e Agnello Pasquale, scugnizzo di Capri, diciottenne nato nel 1899, che si trova in montagna proprio perché era capace ad arrampicarsi, no, sui faraglioni. Sì, esatto, è una storia che è inventata naturalmente, però nasce da una fotografia del babbo del mio babbo, visto che oggi è la festa del babbo, che sarebbe il mio nonno in realtà, che faceva l'eliografista durante la Grande Guerra, cioè i segnali morse col sole, e mi sono inventato questa storia e mi sono immaginato il rapporto fra questo uomo maturo, che in realtà non ha mai voluto accettare responsabilità e quindi neanche paternità, che sono appunto io, questo maestro elementare, e un ragazzino che immediatamente lo prende come papà, questo Agnello Pasquale, e da lì nasce tutta la storia. È una storia leggera, però che tratta anche questo argomento che per quanto mi riguarda è l'argomento di vita vissuta. E certo, e poi è bello che parta da una storia di famiglia, no? Da una foto, proprio nel rapporto, no? Sì. Di padre e figlio, di cui continuerà a parlare Deborah anche nella seconda parte. Vedo già che si scalda i box di partenza al tuo prossimo ospite. C'è un po' di fermento. Allora Alberto, vuoi fare un commento, un in bocca al lupo a Paolo Cevoli? Solidarietà tra padri. Tra padri. E anche tutte e due, tu con il tuo nuovo libro, lui con il nuovo film, no? Dobbiamo scegliere poi a chi regalarlo, sì. Magari leggiamo qualche altro messaggio. Mi sembra che il film sia davvero bello e poi racconta una grandissima verità, che sono i nostri figli che spesso ci trasformano e ci permettono di diventare uomini migliori. Vedi che Alberto è sempre perfetto, come stanno scrivendo i nostri ascoltatori. Magari leggiamo questo che ci era piaciuto molto. Vai. Di questa ascoltatrice che dice: ho adorato e stimato mio padre finché ho avuto la fortuna di averlo con me. Crescere con lui mi ha impedito di diventare femminista, forse anche perché lui mi diceva sempre: avendo una figlia femmina, come potrei mai essere maschilista? E poi di nuovo fortunata con mio marito, che è un papà deciso, comprensivo e dolce, mi rinnamoro ogni volta a vederlo come si comporta con loro, quindi con i figli. Alberto, qua il libro scatta. Assolutamente, e anche a un nostro amico che ci scrive: io sono padre adottivo di due bambine, ricordo come sensazione fantastica il momento in cui ci hanno presentato la nostra prima bimba, aveva 6 mesi in quel momento, io e mia moglie abbiamo partorito insieme e mi sono sentito padre e madre, sono passati 20 anni ma ancora mi emoziono pensandoci. Anche un altro libro a questo nostro ascoltatore. Quanti che non hai? Si firma Alberto, dovremmo svuotare la Feltrinelli, per cui ci limitiamo qui. Intanto ti ringraziamo. Grazie, buona festa del papà. Paolo Cevoli però lo catturiamo perché Paolo lo traghettiamo. Puoi rimanere ancora un po' con noi? Perché Paolo, io sono, certo, io voglio, perché io voglio ridere, perché Deborah mi ha raccontato di un vostro incontro dove tu, va bene, tu forse te la ricordi. Che mi viene già da ridere però. Dai, no, Paolo, poi il nostro prossimo ospite si chiederà: ma per quale motivo io devo essere coinvolto in questo giro? Ma sono sicura che gli piacerà. Cuore e denari. Ci ritroviamo anche oggi con Investire Informati in formato speciale, perché comunque prosegue la nostra trasmissione dedicata anche alla festa del papà. Comunque vanno avanti anche i nostri giovedì dedicati alle parole del risparmio e agli strumenti di investimento. Investire Informati. Per chi ci ha seguito molto attentamente sa che abbiamo dedicato in queste settimane approfondimenti specifici all'andamento dei mercati finanziari. Oggi, pur mantenendo un riflettore su questi argomenti, manteniamo questo legame con la prima parte di Cuore e Denari, e creiamo questo ponte anche però con un altro evento che invece si svolgerà la prossima settimana e metterà Milano e i temi del risparmio al centro dell'attenzione generale. Da mercoledì parte infatti la 6ª edizione del Salone del Risparmio. Oggi ne parliamo di questo, ma non solo, con Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Tra l'altro voglio ricordare che con Fabio Galli abbiamo inaugurato Cuore Denari, Investire Informati il 4 dicembre del 2014, per cui oggi anche ci sembra giusto fare un po' un punto della situazione su tutta questa operazione di, tra virgolette, passatemi il termine, educazione finanziaria per i nostri ascoltatori. Allora, intanto ai nostri ascoltatori ricordo sempre che la modalità per interagire con noi è sempre la stessa, l'800 24 00 24. Fate attenzione alle cose che raccontiamo in questa prima parte, perché poi avremo il nostro consueto test, riapriremo la nostra libreria a beneficio dei nostri ascoltatori che azzeccheranno la risposta giusta sul domandone che faremo. Prima di fare il biglietto da visita all'edizione 2015 del Salone del Risparmio, racconta agli ascoltatori perché ho voluto mantenere Paolo Cevoli. Anche Fabio Galli era curioso di questo. Perché io ho conosciuto Paolo Cevoli 4 anni fa, credo, in occasione dei Morning Star Awards, che è una kermesse finanziaria molto importante che adesso si svolge a Milano, ma in quel periodo si svolgeva a Rimini. Paolo, ci ricordiamo? Paolo Cevoli, eccoci qua, 2010, esatto. Allora Paolo fece uno dei suoi interventi che tutti ovviamente si aspettavano che fosse comico e divertente, come poi è stato, ma partì con la storia dell'attività di famiglia, rappresentandola con tutta una serie di grafici e di istogrammi sui quali io mi sono ammazzata dalle risate, dalla prima parola all'ultima. Perché Paolo, mi ricordo che tu hai proiettato questi istogrammi, no? Come dire, perché sì. Le torte, le slide, giustamente, perché chiaramente. Quindi comunque hai questa storia anche di piccola azienda familiare che in qualche maniera ci lascia, ci permette praticamente di mantenere questo tuo coinvolgimento. Vedi, stamattina. Esatto. Sei un ospite per tutte le occasioni, Cuore e Denari. Esatto, il tema della trasmissione del risparmio di generazione in generazione interessa anche te. Io sono figlio di imprenditori romagnoli, no, facevo l'albergatore. Comunque, se volete, su qualsiasi argomento io ho qualche patacata da dirvi, ce l'ho. Chiamatemi che io... Certo. Senti Paolo, però questi argomenti con i tuoi figli, tu come li tratti? Cioè, sei stato un papà che ha dato la paghetta, per esempio? Sì, appena hanno fatto la prima edizione gli ho fatto il conto corrente e il banco. Ah. Perché Paolo mi ha imparato a gestire i soldi dandomeli. Ah, certo. Rendendoti sì, insomma, responsabile, ecco. Fate un po' voi e poi dopo, perché io ho lavorato come dicevi te Deborah nella pensione di miei genitori, quindi per me il senso del cliente, il senso del lavoro l'ho avuto fin dall'inizio. Il mio babbo mi ha insegnato. È una bella scuola, è quella. Altro che, infatti. E poi voi l'avete un po' nel DNA, no? Un po' questa. La Romagna ce l'ha. Sì, siete speciali. Benissimo. E allora ricordiamo l'appuntamento: il 2 aprile, Soldato Semplice? 2 aprile, Soldato Semplice, Giusti Cinema d'Italia. È un film bello, una commedia leggera, divertente, che però c'è anche dietro, che penso, tutto un discorso. È che cosa? Va bene, bisogna vederlo. Bisogna vederlo, poi faremo la recensione successivamente. Grazie Paolo per essere grazie stato con noi. Un grazie abbraccio. Molte. E noi ritorniamo a Fabio Galli, a cui abbiamo fatto assistere a questo blitz, appunto, assistere a questo blitz cinematografico nel corso di Investire Informati. Andiamo a questo, anzi, prima di fare il biglietto da visita dell'edizione 2015 del Salone del Risparmio, le vorrei chiedere un commento legato anche a questa ricorrenza sulla festa del papà, appunto, della quale siamo partiti con Cuore e Denari questa mattina, perché i papà rivestono un'importanza rilevante quando tocchiamo la sfera del risparmio, no, dottor Galli? Se guardiamo anche al profilo dell'investitore nello strumento Fondo Comune di Investimento, effettivamente notiamo che dal punto di vista anagrafico evidentemente parliamo di papà e nonni quando individuiamo i sottoscrittori, appunto, è giusto, è corretto? Sì, no, è certamente vero che noi tendiamo ad accumulare il nostro patrimonio, il nostro gruzzolo di risparmi, ovviamente nella seconda parte della nostra vita, e quindi diciamo, la persona che mediamente ha la disponibilità di un buon patrimonio incomincia a essere nella seconda parte del suo percorso di vita. Però non è vero che sono solo i papà, nel senso che ci sono tante mamme che gestiscono i soldi per la famiglia e che in qualche modo hanno in mano i cordoni della borsa. Anzi, possiamo dire che quello che noi abbiamo visto nelle nostre analisi di database, troviamo che ci sono dei comportamenti diversi. Ve lo potreste aspettare, le donne tendono ad essere più prudenti, mm-hmm. quindi hanno un approccio più prudente rispetto all'affrontare il rischio. Di per sé non è né un bene né un male, è semplicemente un'attitudine, ma c'è questa chiara differenza. Eh sì, infatti. Allora, guardi, calza a pennello Daniela D'Alessandria, che subito si è messa in lizza appunto per intervenire in diretta e ha chiamato l'800 24 00 24. Daniela, benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi fatto partecipare a questa cosa che mi fa piacere. Io ho due nipotine grandicelle, una di 8 anni e l'altra che sta per compiere, e quando sono nate ho fatto un bel librettino, e ogni volta che c'è un anniversario contribuisco, e la più grande, quando è venuta a depositare la sua firma, stampatello, che aveva 5 anni in banca, era molto emozionata. No, dai, che bella immagine! È stata una cosa bellissima, adesso che l'ha rinnovata la firma perché scrive un po' meglio, era ancora più felice, e lei dice poi: nonna, ma io sono una bambina ricca. Altro che con è una nonna così sì. Sì, infatti, no, una bambina protetta, esatto. Una bambina che deve sapere di avere un suo patrimonio che poi imparerà a gestirselo. Mm-hmm. Daniela, tra l'altro, guardi, lei ci ha anche detto un po', ci ha dato anche gli strumenti per parlare dell'ABC del risparmio per i piccoli. Si parte quasi sempre con un piccolo libretto di risparmio, poi magari modificare la strategia di investimento nel corso degli anni. Da questo ripartiamo, Fabio Galli. Tra l'altro c'è un'esplosione di bambini con i fondi pensione. Benissimo, allora da qui ripartiamo dopo il giornale radio, tra poco. Cuore e denari. E ci ritroviamo di nuovo in diretta. Aspettate un attimo che alzo il microfono, perché qua nella nostra chiacchiera a microfoni spenti me ne ero dimenticata. Ritorniamo allora con il nostro appuntamento del giovedì, Investire Informati. Investire Informati. Con noi questa mattina c'è Fabio Galli, direttore generale di Asso Gestioni, con il quale stiamo intrattenendo questa molto interessante chiacchierata sul tema della famiglia e risparmio per i figli. Siamo partiti naturalmente con Nicoletta, con la festa del papà, abbiamo parlato della trasmissione di valori, ma anche la cultura del risparmio è qualcosa che va trasmesso con grande attenzione, con sensibilità, se vogliamo, anche con la modalità giusta, anche con l'esempio, se vogliamo, di quello che si fa in casa. C'è Giorgio che ci scrive: quando ho chiesto a mio padre cosa fosse il denaro, mi ha risposto: ogni monetina che vedi in casa è un po' del lavoro che ho fatto per te, caricando anche un pochino di responsabilità, no, già dottor Galli, fin da piccolo, questo nostro ascoltatore. Le piace questo approccio? Beh sì, caricare di responsabilità, diciamo, più che altro abituare all'idea che c'è comunque un valore anche nel rinunciare a un consumo immediato, alla soddisfazione immediata, e a pensare al proprio futuro, cioè l'idea un po' del seme, no? Che nel bambino può avere un riconoscimento. Non facciamo questa cosa adesso, la facciamo magari più avanti, la possiamo fare meglio, certo. Abbiamo più risorse. Parleremo adesso, non spaventatevi per questi termini, di bambini finanziarizzati e di bambini con i fondi pensione. Come dire, poi la spiegazione di queste sintesi è molto più nobile, molto più articolata ed interessante. Prima però mi voglio prendere 2 minuti con Fabio Galli per anticipare invece quello che succederà a Milano la prossima settimana, perché sulla rampa di lancio la 6ª edizione del Salone del Risparmio, e quindi 3 giornate che ci vedrà anche grandi protagoniste, Nicoletta, perché saremo lì. Assolutamente. Con tanti ospiti di cuore e di denari, ma andiamo ai temi che avete scelto per questa edizione, Galli. Quelli che vi stanno più a cuore, insomma. Esatto. Beh, cioè, diciamo, più che esserci un solo tema, c'è un leitmotiv, cioè c'è un po' un filo conduttore che abbiamo chiamato il nuovo risparmio. Cosa vogliamo dire nuovo risparmio? Intanto i numeri ci dicono, è impressionante vedere la crescita di consapevolezza nel valore del risparmio e soprattutto nell'idea di trattare bene questo risparmio, cioè metterlo a frutto. Abbiamo vissuto per molti anni con una certa anche facilità, pensando che il risparmio 40 anni fa, 30 anni fa era un libretto postale, un libretto bancario, poi siamo passati ai titoli di Stato e alla seconda casa. Oggi un po' abbiamo anche finito questa idea facile che un po' di soldi in titoli di Stato, un secondo appartamento fosse un modo molto sensato per una famiglia di pianificare il futuro. Sappiamo che il nostro mondo è diverso, ci sono dei tassi ridotti al lumicino e, come vediamo, sono destinati a stare con noi per un po' di tempo. C'è un mondo che offre molte opportunità di investimenti, e se non si ragiona in maniera più aperta di investimenti, non si avranno dei rendimenti interessanti, e quindi questo porta i risparmiatori a pensare di più a cosa si può fare, a capire anche che, come ogni attività umana, richiede professionalità, quindi è giusto avere al proprio fianco in molti casi un consulente, qualcuno che ci guidi, così come usiamo un dottore per la nostra salute, usiamo un commercialista per pagare le tasse, usiamo anche un esperto per guidarci nel risparmio, nella pianificazione del risparmio del futuro. E in questo mondo molto variegato, il nuovo risparmio significa: cosa vuol dire veramente avere un portafoglio diversificato e quali aspettative darsi oggi rispetto a tassi di interesse che sono ormai ridotti a zero? Viaggerete un po' più in alto con il tema invece della plenaria, che è la conferenza sostanzialmente che inaugura il salone, perché qua si parlerà alla presenza del ministro dell'economia Padoan del connubio fra finanza e sviluppo. Perché deve interessarci questo argomento, Galli? Beh, intanto l'Italia, viene detto a volte, ma sembra non averne molto una consapevolezza, ha un proprio oro nero, e l'oro nero italiano è il risparmio, nel senso che l'Italia è il secondo paese europeo per propensione al risparmio, ha famiglie che risparmiano nonostante la situazione di crisi economica, e come noi riusciamo a trasformare questa risorsa in un motore per lo sviluppo economico, quindi per l'investimento nella impresa, anche quella piccola non quotata, anche come il privato, ma il privato nel senso anche delle famiglie, possa trasformarsi in un veicolo di sviluppo delle infrastrutture del nostro sistema paese. Tutto ciò non è facile, non è scontato, e possiamo anche ragionare nel senso che noi non abbiamo bisogno poi alla fine di aspettare soltanto che l'Europa faccia qualcosa per noi, siamo anche in grado di fare qualcosa per noi stessi. Questo significa rafforzare tutto il mondo della previdenza complementare, dei fondi pensione, investire bene i nostri soldi. Certo, non tutti possono risparmiare, questo è chiaro, ma sappiamo che oggi su 20 milioni di famiglie o qualcosa in più, almeno i 2/3 risparmiano, e risparmiano anche in maniera significativa. Il tema è capire appunto come questo risparmio può andare al servizio dello sviluppo anche dell'economia del nostro paese. Bisogna che questi messaggi vengano fatti passare alla collettività con grande chiarezza, perché poi quando si ha bisogno di intaccare questo risparmio anche attraverso, come lei sa Galli, il tema della fiscalità, in realtà si agisce sempre in emergenza, come è successo negli ultimi anni, e passano dei messaggi sbagliati. Infatti l'obiettivo nostro sia nel discutere di queste cose con le istituzioni, col governo, è quello proprio di dire: dobbiamo diventare persone che pensano al futuro a lungo termine. So, è molto difficile, infatti ci si prova a farlo con i bambini, perché il consumo immediato ha un'attrazione molto forte, anche ottenere qualcosa nel breve termine è un'attrazione emotiva molto forte. Pensare a quello che possiamo fare per vivere meglio tra 20-30 anni non è facile, proprio umanamente non è facile. Però è un piccolo dovere nei confronti di noi stessi e delle nostre famiglie, per cui dobbiamo impegnarci. I genitori possono fare grandi cose con i figli, abbiamo sentito prima qualche esempio. Noi vediamo questi numeri, che sono abbastanza importanti, di famiglie che incominciano a pensare che anziché comprare un regalo in più ogni mese al proprio bambino, chi se lo può permettere, magari incomincia anche a sfruttare degli incentivi fiscali, perché c'è una piena detraibilità, e quindi andare su un piccolo fondo pensione partendo a... So che può fare impressione pensare di parlare a fondo pensione a 5 anni, ma arriva a 30 anni ha già un gruzzoletto, anche perché la cosa fondamentale in finanza, la regola di base in finanza, è quello dell'interesse composto, quindi 1000 euro oggi tra 50 anni sono una cifra assolutamente ragguardevole. Mi dà l'occasione per salutare Andrea Pennacchi, amministratore delegato di Ubi Pro America, perché ce l'ha spiegato veramente almeno in un paio di puntate questo concetto, che non è di impatto immediato, però in realtà noi cerchiamo anche di mettere a disposizione dei nostri ascoltatori gli strumenti giusti per cercare di prendere confidenza con questi argomenti, che sono tutt'altro che facili. Prima di sentire è caduta, ma adesso la andiamo a ripescare, Gabriella da Prato, le testimonianze degli ascoltatori su come pensano di fare o come stanno facendo, come stanno trasmettendo la cultura del risparmio a figli e nipoti. Ricordiamo anche, Galli, che dei risparmiatori di domani parlerete in un evento apposito nel corso del salone, presenterete i dati di un sondaggio, non possiamo certamente anticipare con una settimana prima i risultati di questa indagine, però insomma... Sì, ma l'obiettivo è proprio quello di ascoltare i più giovani, cioè coloro che ancora non risparmiano, ma incominciano a formarsi un'idea di che cosa significa risparmiare e investire. Ora, si trovano ragazzi e ragazze molto diversi uno dall'altro. A 18 anni è ancora difficile concettualizzare l'idea di risparmio e di investimento, però c'è un'accelerazione rapida dai 18 ai 30 anni, ovviamente il punto di svolta è l'entrata nel mondo del lavoro. Nel momento in cui, prima si parlava della fatica dei genitori che hanno accumulato per noi, nel momento in cui noi iniziamo ad accumulare o comunque a guadagnare, quello è veramente un momento di svolta nel nostro rapporto con le risorse, perché capiamo sulla nostra pelle che ce ne ci abbia raccontato la nostra nonna, il nostro papà, la nostra mamma. Capiamo in quel momento cosa vuol dire lavorare e guadagnare. E lavorare e guadagnare vuol dire anche avere un'idea di a cosa si può rinunciare, perché cosa posso mettere da parte. C'è una svolta con l'entrata nel mondo del lavoro. Intanto direi che è tempo del nostro domandone. Guardate, oggi più facile di così veramente non la potevamo pensare. Abbiamo parlato in lungo e in largo di questo evento che si svolgerà settimana prossima a Milano, ma che riguarda noi tutti. Potete andare anche a dare, così trovate la risposta, una sbirciatina sul sito. Poi Fabio Galli ci dirà anche se è possibile seguirlo a distanza, più o meno, se è possibile partecipare al Salone del Risparmio 2015 che si svolgerà settimana prossima a Milano. Allora, avete fatto attenzione a quello che abbiamo detto nella prima parte? Di che edizione si tratta, ragazzi? Più semplice di così abbiamo raggiunto veramente abbiamo superato ogni record di semplicità con la domanda di oggi, quindi non vi chiediamo che cos'è il Nasdaq come abbiamo fatto settimana scorsa, o insomma abbiamo fatto altre domande un po' più complicate sul tema del risparmio, quindi ragionateci oppure andate a vedere sul sito e poi chiamateci all'800 24 00 24. Apriremo come sempre la nostra libreria di cuore e denari, magari qua un po' più spostata sul denaro, se volete. Magari anche Fabio Galli ci darà qualche suggerimento di lettura per capire se chi vuole cimentarsi con qualcosa di nuovo nelle prossime settimane sui temi dell'educazione finanziaria, magari se ha un libro del cuore da suggerire ai nostri ascoltatori. Magari ne porta qualcuno da casa. Infatti. Allora, vogliamo andare a Prato? Andiamo perché a c'è Prato. Gabriella, buongiorno, benvenuta. Benvenuta Gabriella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa voleva risparmiatrice? Raccontarci? Allora, ci sentiamo. Diciamo che noi abbiamo 3 figli, io sono quasi cinquantenne, molto difficile risparmiare, però grazie ai contributi di nonni, zii, e comunque ogni occasione è buona per... le comunioni, le cresime, i compleanni, Gabriella, insomma, esatto, lì si racimola sempre qualche cosina per questo gruzzoletto. Comunque, sì, sono d'accordo sul fatto che dobbiamo rendere consapevoli i nostri figli di quello che è il risparmio e di come anche... eventualmente spendere questi soldi, per cui loro fin dalla nascita hanno un loro libretto in cui periodicamente versano, cioè lo faccio io, ma condivido con loro quanto versare, perché una parte comunque se la riservano nel salvadanaio di casa per far fronte, diciamo, alle spese correnti o comunque hanno delle passioni. E quindi ecco, quindi sentiamo. Tengono anche il loro personale bilancio, no? La loro bilancina, certo. Fanno la loro certo. piccola pianificazione finanziaria, come sarebbe contento certo. Antonio Caglielli. No. Brava. Brava. E quindi no. insomma, quindi condivide no. con lei l'obiettivo, oltre che la forma, anche la sostanza di quello che si fa. Sì, sì. E poi appunto cerchiamo di condivido molto il fatto della consapevolezza e condivido molto il fatto che dobbiamo educare i nostri figli a rinunciare a qualcosa oggi per qualcosa che sarà domani. Quindi noi ci pensiamo in questo, non è automatico, non abbiamo grandi complici educativi nella società che si circonda, però perché appunto tutti hanno tutto. Ma hanno tutti e quindi noi ci tentiamo. È un po' faticoso, però insomma fa parte del certo, ruolo. Certo. Vedo che i ragazzi, insomma, sinceramente se la cavano. Dai. Ottimo, Gabriella, complimenti anche. Ci saluti i suoi ragazzi e grazie molte per la sua testimonianza. Dottor Galli, allora, i primi strumenti di investimento che si adottano anche sull'onda un po' dell'emotività quando arriva un bebè in casa sono i più semplici, no? Quelli che permettono un piccolo deposito, una raccolta del denaro, e sono i libretti di risparmio. Ancora magari più avanti si cominciano a fare anche delle polizze. Lo strumento del fondo di investimento viene scelto magari in una fase successiva, anche se magari qualcuno può farlo già sin da subito, e tradizionalmente è la forma del piano di accumulo, no? Che viene privilegiata proprio per, come dice lei, sollevare l'attenzione giusta sul tema del lungo periodo. Sì, anche perché investire è un po' come molte abitudini sane, cioè sono delle abitudini che nascono dalla diligenza, cioè uno non si deve fare troppe domande perché è bene alzarsi la mattina e bere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente. È così, dopo... Che soddisfazione che mi dà quest'uomo, anticipa anche un po' il tema di domani. Sì. Sono ci senza dei parole, lanci. Dopo 30 anni, uno che ha bevuto quel bicchiere d'acqua tutte le mattine starà comunque meglio di chi non l'ha fatto. Ecco, così è un po' l'investimento. Se uno fa regolarmente anche un passo piccolo, anche che pare in alcuni casi modesto, ma lo fa sistematicamente, senza chiedersi troppo che fare fatica tutti i giorni, pesa. L'importante è essere molto molto sistematici, quindi avere questo tipo di disciplina, che appunto, come ricordava prima anche l'ascoltatrice, è una disciplina a cui siamo disabituati, perché siamo un po' dell'idea dell'impulso. Questo ci porta ad avere dei risultati molto molto solidi. Quindi il piano d'accumulo, che è l'idea, un po' insomma la formichina funziona sempre. Eh sì, perché la formichina che mette da parte, allora, non si fa prendere da quelle che sono, lo dico qui da voi, le notizie. La notizia in qualche modo emotivamente può creare dei grossi un grosso problema, che è un problema che hanno i risparmiatori in tutto il mondo e l'hanno avuto gli italiani, le famiglie italiane soprattutto anni fa, stanno imparando a superarlo, è quello di agire sulla base della notizia, e quindi quando c'è un problema scappare dall'investimento, disinvestire, andare in liquidità, quando tutto sembra andare bene entrare in maniera molto forte. Questo porta a comprare proprio nei momenti in cui il mercato è già alto e invece magari a disinvestire nel momento in cui il mercato è basso, e questo uccide la possibilità di far rendere i nostri risparmi. Chi sistematicamente invece, senza prestare troppa attenzione al telegiornale, sa che mettere da parte quel poco in quella maniera giusta, quindi la maniera giusta vuol dire possibilmente in modo diversificato, è il modo migliore, è usare un fondo, perché un fondo dentro di sé è una piccola parte che ognuno di noi possiede di un portafoglio molto molto ampio, molto diversificato. Facendolo sistematicamente, tutti i numeri ci dicono che le persone hanno dei forti risultati. Abbiamo festeggiato l'anno scorso il trentennale, 4 dicembre 2014, e abbiamo incontrato un cliente che è rimasto investito per 30 anni. 30 anni significa dalla nascita dell'industria dei fondi, sì, fino a dicembre. Esattamente. E i risultati sono veramente impressionanti. Benissimo, ce li viene a raccontare in un'altra puntata, magari la settimana prossima ce lo racconta il Salone. Cristina da Torino, che edizione è del Salone del Risparmio? Questa edizione del Salone del Risparmio. Ottimo, di brava, le manderemo naturalmente un libro. Quale le piace, Fabio Galli? Che cosa leggerebbe? Consiglio di non leggere niente di troppo finanziario. Pensate. Mannaggia, guarda che mi fa questo scivolone sul finale. No. Veramente, pensate a ciò che si sente. Semina e si lavora, tutto ciò che è legato al lavoro e alla diligenza porta a investire. Leggete bene quello che vi piace. Se Nicoletta mi segnala Norme e Tributi del Sole 24 Ore, che è un po' difficile, però qualche volta anche lì troviamo degli spunti. È una buona per palestra per il cervello. Io vi segnalo oggi invece che con il Sole 24 Ore in edicola c'è l'inserto speciale Job Act 2015, il contratto a tutele crescenti, il nuovo assegno per i disoccupati e tutto quello che riguarda la riforma del lavoro. Appuntamento a settimana prossima con Salone dei Risparmi, appuntamento a domani con Cuore Denari. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Cuore e Denari.